Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Ricorderete circa un anno fa, quando nacque la nostra trasmissione, tra le prime puntate ci occupammo del caso della stazione ferroviaria di Termoli. Questo grazie ad un lettore che ci aveva segnalato che in quella stazione pioveva e comunque i disagi per i disabili erano enormi, al punto che ad esempio l'ascensore non funzionava, quindi era impossibile portare al piano dei binari i disabili stessi. Una situazione abbastanza imbarazzante, tanto che il nostro radioascoltatore segnalò la cosa a Trenitalia già dal 22 marzo 2006. Noi registrammo una puntata in cui Trenitalia ci aveva dato assicurazione che di lì a poco le cose si sarebbero messe a posto, i disabili sarebbero stati in grado di raggiungere agevolmente i binari, l'ascensore sarebbe stata quindi messa in moto, insomma sarebbero state abbattute parecchie barriere architettoniche. Ci occupiamo quindi di questo caso per vedere ad un anno di distanza cosa è cambiato, e poi perché ahimè è esemplificativo delle difficoltà che i diversamente abili spesso hanno in tutta Italia quando hanno a che fare con le infrastrutture. Buongiorno Antonio Fasciano. Buongiorno a tutti voi. Allora, Fasciano appunto un anno fa ci scrisse, quindi abbiamo ritenuto doveroso riascoltarlo per sapere che cosa è cambiato a distanza di un anno, Fasciano. E che cosa è cambiato? Nulla, le cose sono peggiorate e sono qui a denunciare la mancata osservanza nella mia, ma come nelle diverse stazioni, nella mia di Termoli, ma come nelle diverse stazioni d'Italia, del disciplinare tecnico emanato dalle Ferrovie dello Stato per l'eliminazione delle poi ormai combattute barriere architettoniche, comprese grandi stazioni, 100 stazioni, facendo riferimento al DPR 503 del 96. Ecco, lasciamo perdere legge e quant'altro, perché i nostri ascoltatori non seguono queste sigle, non hanno nemmeno contezza di che cosa siano queste leggi. Ci interessa però sapere che, secondo il suo giudizio, nella stazione di Termoli, in Molise, come ci ha anche documentato con foto, video, articoli di giornali, della stampa locale e quant'altro, la situazione invece che essere migliorata è peggiorata. Allora, sì, la situazione è peggiorata perché oltre al fatto che comunque la stazione ogni giorno peggiora, di giorno in giorno gronda acqua da tutte le parti lungo le scalinate per il raggiungimento dei binari, dei treni, i due ascensori sono immobili lì, e sono due, uno sulla parte destra della stazione e l'altro sulla parte sinistra, e noi siamo qui ad attendere che Trenitalia faccia qualcosa. Volevo ricordare semplicemente questo, che dal 1985 al 2000 Trenitalia ha percepito 210 miliardi delle vecchie lire come contributo pubblico obiettivo, fra questi anche insomma riportare alla serenità insomma certe situazioni, risolverle. Ok, allora è chiara la sua denuncia, e come noi siamo soliti fare in tutte le puntate, non si dà soltanto la voce alle accuse ma anche alla difesa. Io estremizzo ovviamente il concetto, perché non siamo in un ring, siamo in una radio dove dialetticamente si affrontano i problemi, ed è per questo che quindi do il buongiorno e il benvenuto all'ingegnere Paolo Pallotta, direttore compartimentale Movimento di Bari di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno Pallotta. Buongiorno, saluto lei, saluto gli ascoltatori. Allora, grazie per essere intervenuto. E come mai la situazione a distanza di un anno, ma in realtà la segnalazione che fu per la prima volta spedita risale al 22 marzo 2006, non è ancora cambiata, e direi in meglio? Dunque, in relazione al precedente incontro, noi abbiamo finanziato e realizzato un progetto di adeguamento e messa in servizio degli ascensori della stazione di Termoli. Abbiamo partecipato al Comune in una riunione del 10 giugno del 2008, il nostro intendimento di effettuare i lavori a partire da settembre di quest'anno. Nel corso dell'incontro con il Comune ci fu partecipato dai rappresentanti del Comune di Terni e a seguito di questo intervenne una lettera del 22 luglio 2008 a firma del sindaco del comune di Termoli, in cui ribadiva quanto detto nel corso della riunione, che il comune si esprimeva favorevolmente per un progetto di scala mobile Tapirulan. Quindi avrebbe partecipato finanziariamente, diciamo così, alle migliorie, diciamo un termine un po' antiquato, comunque al miglioramento delle infrastrutture per i disabili all'interno della stazione. L'intendimento del comune di Termoli era di privilegiare la realizzazione di scale mobili e Tapirulan anziché ascensori. Ecco, ma le ascensori secondo quello che gli risulta funzionano? Perché abbiamo appena sentito il nostro non funzionano. Noi abbiamo pronto il progetto finanziato, siamo pronti a partire, in relazione, visto che il comune è l'ente locale, l'interlocutore privilegiato con cui prendere accordi prima di fare un'opera, cerchiamo di farla in accordo con d'accordo l'ente locale. Benissimo, allora io la ringrazio per questo suo primo intervento, e visto che lei ha chiamato in causa il comune, lo chiamiamo in causa anche noi, quindi do il buongiorno all'ingegner Mario Di Blasio, che è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Termoli. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e ai suoi spettatori. Allora, una domanda un po' provocatoria. A me sembra che poi alla fine in Italia si continui un po' a giocare ad uno scaricabarile, perché la responsabilità dovrebbe essere di Rete Ferroviaria Italiana. In realtà Rete Ferroviaria Italiana scrive al comune di Termoli, incontri di unioni e quant'altro, i progetti sembrano esserci, le risorse finanziarie pure, però di fatto a distanza di 2 anni dalla prima segnalazione, a Termoli la stazione ferroviaria continua ad avere i disagi che aveva prima. Come mai, assessore? Ma intanto è da capire una cosa: bisognerebbe far riferimento allo stato dei luoghi e capire che i 2 ascensori non risolvono nella sostanza l'accesso a tutti i binari per i portatori di handicap e diversamente abili, in quanto sono posizionati alle punte estreme del primo binario e di un'altra strada di collegamento che e Viale Trieste. Assessore, io su questo la fermo un attimo, perché anche i soldi non portano la felicità, però magari aiutano a raggiungerla, e allora ci sarebbe da domandarsi, come seconda battuta che le pongo, come mai sono stati fatti quegli ascensori se non servono a niente. Allora ascolti, lei sa che la competenza è tutta delle ferrovie. È vero che le ferrovie ci hanno partecipato, hanno chiesto di mettere insieme, di utilizzare in maniera promiscua gli ascensori, ma per una finalità specifica che ha la stazione di Termoli. Gli ascensori dovrebbero avere un uso promiscuo e per accedere ai binari e per consentire un collegamento del tutto pedonale per i cittadini che dovessero necessariamente attraversare da Piazza Stazione e andare in Viale Trieste, utilizzando il sottopasso. Va bene, noi non conosciamo Termoli, sì. Però abbiamo capito che questi ascensori, anche se funzionassero, non risolverebbero del tutto il problema. E quindi ripongo la domanda a me stesso innanzitutto, perché in Italia si sprecano i soldi così. Ciò detto, io le chiedo, allora a questo punto con Rete Ferroviaria Italiana avete trovato l'accordo per dare il via a questi lavori di scale mobili che possono finalmente dare una soluzione definitiva al problema? Sì, allora le dico, voglio chiarire il concetto. Nella nota che il sindaco fece a seguito dell'incontro che avemmo in giugno con Trenitalia, il sindaco aveva fatto questa specifica richiesta: se l'obiettivo è quello di garantire l'accesso ai diversamente abili nei vari binari e si pensava di fare questa cosa con i soli ascensori, il problema non si risolveva, in quanto al binario terzo, al binario quarto, quindi a quelli intermedi, non ci si poteva accedere in quanto non c'è nessun collegamento altimetrico. D'accordo, questo l'abbiamo capito approfonditamente. Ripeto la domanda. Sì. Troverete l'accordo sì o troverete l'accordo no per dare il via ai lavori così come l'avete progettati insieme? Ma guardi, io le dico, i lavori non li abbiamo progettati insieme, i lavori li ha fatti RFI, ci è venuto a sottoporre la possibilità di un uso promiscuo di questi ascensori a loro per consentire l'accesso ai passeggeri, ai binari, utilizzando l'ascensore, a noi per utilizzare la stessa struttura per un collegamento cittadino e 2 strade esterne alla stazione. E allora, questo è. Lo farete o no? Sì, se mi fa chiarire bene dico questo. Sì, no, io la faccio chiarire, assessore, tanto che sta ripetendo la stessa cosa da 6 minuti. Allora, farete queste scale mobili e questo accesso facilitato per i disabili o no? Allora, forse non ci siamo capiti. La non possiamo capire. Non è il comune che può realizzare un'opera. Allora abbiamo capito. Benissimo, allora abbiamo capito. Voi non c'entrate niente. Scaricabarile in Italia funziona benissimo. Allora, benissimo. Ingegner Pallotta, Rete Ferroviaria Italiana. Allora, può spiegarci per piacere lei come funziona? Dunque, Senta una cosa, noi abbiamo un circuito per le persone diversamente abili che vale in tutta Italia, è un circuito in cui noi possiamo prendere i treni sui binari, quindi c'è un circuito organizzato di servizio che consente la salita e la discesa delle persone diversamente abili purché siano precedentemente annunciate prima del loro viaggio, quindi nell'ambito dove abbiamo situazioni di treni con viaggiatori diversamente abili possiamo prendere su binari. Mi scusi ingegnere, io la fermo un momento perché a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi dobbiamo fermarci qui, riprenderemo la vicenda nei prossimi giorni perché francamente mi pare che è rimasto il problema, ma di soluzioni non se ne vedono. Quindi grazie a regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggini e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.